Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata, come amo sempre ripetere, se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo il mio blog sull'homepage del Sole 24 Ore, si chiama Guardie o Ladri. Lo trovate anche attraverso un qualunque motore di ricerca, basta digitare il mio cognome o Guardie o Ladri, che è appunto il mio blog, in cui tratto di temi di legalità e criminalità organizzata. L'una e l'altra cosa spesso si sposano alla meraviglia. Oggi trattiamo un tema che non so da che parte prendere. Mi spiego, è talmente pieno di abusi che il protagonista, o meglio la protagonista che ora sentiremo, è una donna molto coraggiosa, ha pensato bene di portare carte e fascicoli presso la Procura della Repubblica in Sicilia, perché la storia si svolge appunto in Sicilia e parliamo del consorzio Autostrade Siciliane. È un consorzio che gestisce in concessione circa 400 chilometri di autostrada, Messina-Catania, Messina-Palermo, Siracusa-Gela. Ecco, sono questi i tratti interessati da questo consorzio, che ha avuto un commissario ad acta per tanti anni, poi magicamente sul finire della legislatura l'allora governatore della Sicilia Totò Cuffaro nominò un presidente, una presidentessa donna, Patrizia Valenti, che diciamolo subito ha rotto le uova nel paniere a tantissimi interessi consolidati. Ed è per questo che noi oggi parliamo con lei e parliamo dei tanti abusi che ha scoperto. Buongiorno presidentessa. Buongiorno, buongiorno. Le piace questo termine presidentessa? Sì, da onore praticamente alla presenza di una figura femminile in un ambiente dove effettivamente si erano sempre registrate esclusivamente figure maschili alla guida del paese. Esattamente, ci vogliono più donne al governo del paese, lo sostengo e lo dico con fermezza. Allora, guardi, condivido. Io non so da che parte partire, perché mi scusi il tautologismo, perché la tautologia meglio, perché gli abusi sono immensi. Allora, partiamo da una cosa che mi ha sconvolto. In 7 anni, dal 2000 al 2007, 84 milioni di euro non spesi in manutenzione ordinaria su quei 400 chilometri di strade. Ma com'è stato possibile? Ma guardi, questa è stata proprio la prima problematica in cui mi sono imbattuta quando nell'aprile del 2008 sono stata nominata dal governo, allora affetto, per essere precisa, dal vicepresidente Leanza, subito dopo le dimissioni di Cuffaro. E intendo dire, lì abbiamo trovato una diffida che l'ANAS aveva notificato all'inizio dell'anno al consorzio relativa alle mancate manutenzioni dal 2000 al 2005, in quanto noi come concessionari ANAS dobbiamo devolvere in manutenzione una certa percentuale degli introiti che abbiamo come consorzio, introiti che sono i pedaggi autostradali e le royalties dalle aree di servizio. In realtà l'ANAS contestava che nel periodo 2000-2005 non erano state effettuate manutenzioni per 54 milioni di euro. A quel punto sono andata a verificare cosa fosse successo anche negli anni successivi, cioè nel 2006 e il 2007, e mi sono accorta che anche lì le manutenzioni non erano state fatte in maniera adeguata, per cui i milioni di euro non spesi non erano 54 come diceva l'ANAS, bensì 84. Esattamente, ma allora questi soldi, questo bilancio del consorzio Autostrade Siciliane, a cosa servivano? Dove vanno i soldi del consorzio? Ah, guardi, questa è una bellissima domanda, perché evidentemente queste risorse che non sono state spese in manutenzione non erano accantonate nel bilancio, per cui abbiamo cominciato subito un'analisi di tutta l'attività, di tutta la gestione che il consorzio aveva avuto fino a quel momento, e ci siamo resi conti che c'erano effettivamente delle scelte sicuramente discutibili delle precedenti amministrazioni. Mi riferisco prima fra tutti al fatto di non aver rinnovato le concessioni delle aree di servizio. Ecco, di questo parliamo. Perché fra le carte che ho letto e che documentano gli scempi compiuti in questi anni, questa cosa mi ha colpito enormemente. Spieghiamola bene, area di servizio vuol dire quello che noi guardiamo quando attraversiamo la strada. Esatto, esatto. Quindi gli erogatori distributori di benzina, in buona sostanza, i concessionari dei distributori di benzina. Esattamente, lei tenga conto che le petrolifere, le società petrolifere pagano delle royalty che vengono stabilite nel momento in cui viene data loro la concessione, e royalty che dovrebbero abbracciare sia la parte relativa ai carburanti, sia tutta la parte relativa per esempio al market, agli spazi pubblicitari, eccetera. Io ho trovato le concessioni scadute, alcune dal 2000, altre dal 2001, altre dal 2003. Su 13 aree di servizio soltanto due hanno tutt'oggi contratti a posto, le altre hanno tutti i contratti scaduti da quella data. E questo voi avete quantificato, ha prodotto per le casse del consorzio un mancato guadagno, mi corregga se sbaglio, di circa 32 milioni di euro. No, 63 milioni. 67, ah, benissimo, scusi. Fantastico. 67 milioni di euro calcolando il valore minimo del danno, cioè come se tutte le concessioni fossero scadute nel 2003. In realtà, come le dicevo, alcune sono scadute nel 2000, senza calcolare la parte market e senza calcolare il mancato introito per non aver messo a disposizione degli spazi pubblicitari nelle aree di servizio. Quindi il valore minimo del danno in questo caso è 67 milioni di euro. Ecco, ovviamente c'è da chiedersi, e questa è una riflessione che faccio io, dove fossero i controllori dell'ANAS, dove fossero i controllori della regione siciliana, ma qui apriremo un capitolo dal quale non usciremo più, un ginepraio di persone che controlla che non dovrebbero controllare. Ma con lei vorrei potrei dare risposte, evidentemente. Ecco. Ecco, con lei vorrei andare su un altro episodio che la prego di chiarire ai nostri radioascoltatori. Un bonifico o comunque un introito certificato dal tesoriere, che se non sbaglio è il Banco di Sicilia, per 12 milioni di euro che sono spariti dal bilancio del consorzio. Può spiegare bene? Questo è un altro giallo, guardi, ecco. Perché quando abbiamo fatto il consuntivo 2007, mentre nel finanziario era tutto a posto, nel patrimoniale ci siamo accorti che una reversale di poco più di 12 milioni di euro incassata dal Banco di Sicilia non era stata fatta transitare nei conti correnti del consorzio. Sono iniziate allora tutta una serie di ricerche e indagini incrociate con gli uffici, col Banco di Sicilia, e a tutt'oggi non siamo venuti a capo di questo problema, per il quale io stessa avevo chiesto un'ispezione straordinaria ai lavori pubblici sul tema specifico. Ho chiaramente mandato le carte sia alla Procura della Repubblica che alla Procura della Corte dei Conti, ma ancora a tutt'oggi non abbiamo alcuna soluzione delle indagini in mano. Ecco, mentre il governo vara un provvedimento che si chiama scudo fiscale per la seconda volta in pochi anni, che mira e punta a riportare in Italia i capitali esportati appunto all'estero, e ci sono queste magie che nemmeno Silvan o Tony Binarelli dei tempi migliori riuscirebbero a fare. Gli episodi scandalosi sono a decine. Io vorrei chiederle di ricordare una cosa straordinaria, vale a dire 512 dipendenti, 500 cause che voi avete. Sì, anche questa è una scelta sicuramente discutibile delle passate amministrazioni, che ritennero di approvare una pianta organica nella quale i posti individuati per i diversi livelli non corrispondevano alle figure effettivamente presenti nel consorzio. Questo ha generato cosa? Che dopo l'approvazione della pianta organica, il tentativo di far transitare i dipendenti dalla fascia in cui si trovavano alla fascia immediatamente superiore per via amministrativa, nel senso con una semplice delibera del commissario straordinario, è stato bloccato dalla regione, perché evidentemente l'avanzamento di carriera, essendo un ente pubblico, si può fare solo esclusivamente col concorso. Assolutamente. Quindi ci siamo trovati nella paradossale situazione di avere, per esempio, tanto personale di livello A1 svolgere le mansioni di livello A e così via di seguito. Quelli di B1 svolgono le funzioni del livello B, quindi immediatamente superiore, e essendo fallito questo tentativo di regolarizzare il tutto in via amministrativa, questi dipendenti, lasciati quindi a svolgere mansioni superiori, hanno fatto tutto ricorso al giudice del lavoro. Quindi noi abbiamo un elevatissimo numero di cause, esatto, per le quali non si è neanche tentata la transazione. No, tanto che voi avete accantonato in bilancio per questo anno 2,7 milioni di euro per pagare gli avvocati. Questa è un'altra cosa che deve far riflettere profondamente. Gli episodi sono tantissimi, per chi volesse può approfondirli anche sul mio blog, metterò in linea anche un articolo su questo, però io vorrei lasciare il presidente Valenti con questa riflessione. Il governatore attuale della regione Sicilia Lombardo il 25 giugno ha nominato un nuovo commissario straordinario, cioè lei deve andarsene, evidentemente lo dico io, non lo dice lei, perché ha fatto bene il suo mestiere e ha scoperchiato tantissime schifezze, e al suo posto arriva un commissario straordinario. È contenta, dottoressa Valenti? Ma guardi, io sono un funzionario della pubblica amministrazione, quindi non posso che obbedire e combattere decisione del governo. Dico solo soltanto una cosa: questo è un ente evidentemente complicato, difficile, che è stato lasciato andare per tanto tempo. Molti di questi guai si sono generati proprio nel periodo in cui c'era il commissario straordinario e non c'era un consiglio di amministrazione regolarmente istituito. Io mi auguro e spero, qualunque sia la decisione del governo, che chi prenderà in mano questo ente potrà fare sicuramente meglio di quello che io ho cercato di fare in quest'anno. Guardi, ne sono convintissimo a dir poco. Sicuramente le autostrade siciliane diventeranno un fiorire, diciamo così, di asfalto che sarà pronto a recepire e coccolare i milioni di cittadini e di turisti che ogni anno ci passano sopra. Allora, grazie alla dottoressa Valenti, buona fortuna e buon lavoro soprattutto. Ringrazio regia Valeria Bernardi e in studio Laura Fagine. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.